Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. A Morris si era riaperta la ferita in testa. Il medico del pronto soccorso, lo stesso che lo aveva curato dopo la rapina, disse che aveva lasciato il letto troppo presto, che si era strapazzato. Rifasciò la testa del negoziante dicendo a Ida: «Stavolta lo faccia stare a letto 2 settimane buone, finché non riprende le forze. Glielo dica lei, dottore», pregò, «a me non dà retta». Il dottore si rivolse allora a Morris, che assentì fiaccamente. Ida, in uno stato di prostrazione incolore, rimase tutto il giorno col malato. Anche Helen rimase, dopo aver avvertito la ditta di biancheria per signore dove lavorava. Frank Alpine rimase giù a occuparsi del negozio. A mezzogiorno Ida si ricordò di lui e scese per dirgli di andarsene. Ricordando i suoi sogni, lo collegava alla loro nuova sventura. Le pareva che se non fosse rimasto quella notte, forse l'incidente non sarebbe accaduto. Frank era nel retrobottega, sbarbato, grazie al rasoio di Morris, i folti capelli ben ravviati. Quando lei entrò, saltò su ad aprire la cassa e le fece vedere un bel pacchetto di banconote. 15, disse. «Li conti?» «Come mai tanto?» chiese stupita. Egli spiegò: «È stata una mattina movimentata. Molta gente si è fermata a chiedere notizie dell'incidente. Ida si era proposta di rimpiazzarlo per il momento con Helen, finché non avesse potuto occuparsi lei del negozio, ma ora non sapeva più cosa fare. Forse potrebbe restare, se ne ha voglia», balbettò, «fino a domani». «Dormirò in cantina, signore. Non deve darsi pensiero per me. Sono fidato come la luce del sole». «Non dorma in cantina», disse con un tremito nella voce. «Mio marito ha detto sul divano. Che cosa c'è da rubare qui? Non abbiamo nulla». «Come sta ora?» Frank chiese smorzando la voce. Lei si soffiò il naso. La mattina seguente Helen tornò di malavoglia al lavoro. Ida scese alle 10 per vedere come andavano le cose. Stavolta c'erano solo $8 in cassa, ma sempre più che negli ultimi tempi. Frank si scusò. «Non così bene oggi, ma ho segnato ogni articolo venduto in modo che possiate rendervi conto che non mi è rimasto nulla attaccato alle dita». Le mostrò una lista di articoli venduti scritta su carta da pacco. Notò che cominciava con 3 penny per una pagnotta. Guardandosi attorno, Ida vide che aveva disimballato la poca merce arrivata il giorno prima, scopato, lavato la vetrina dall'interno e sistemato le scatole negli scaffali. Il posto aveva un aspetto un po' meno squallido. Durante la giornata sbrigò vari lavoretti. Nessuno dei due accennò alla sua partenza. Ida, non ancora rassicurata, avrebbe voluto dirgli di andarsene, ma non poteva chiedere a Helen di restare ancora a casa, e la prospettiva di 2 settimane sola in negozio con quei piedi, e per di più un uomo malato in casa a cui badare, era troppo per lei. Avrebbe permesso all'italiano di rimanere per una decina di giorni o giù di lì. Quando Morris si fosse ben rimesso, non ci sarebbe stata ragione di trattenerlo oltre. Nel frattempo avrebbe avuto 3 buoni pasti al giorno e un letto, per far poco più che il sorvegliante. Ida cercò di non dimostrarsi troppo cordiale con lui, per fargli capire che un rapporto poco amichevole significava un rapporto di breve durata. Quando erano nel retro o erano insieme al banco per qualche minuto, non incoraggiava la conversazione, ma si metteva a fare o a pulire qualcosa o leggeva il giornale. Quanto a insegnargli il mestiere, non c'era nemmeno qui granché da dirgli. Morris teneva i cartellini coi prezzi sotto tutti gli articoli sugli scaffali. Ida diede a Frank una lista dei prezzi per i salumi, le verdure e tutte quelle merci che non avevano il prezzo segnato, come il caffè sciolto, il riso, i fagioli. Gli insegnò a incartare con cura, come Morris aveva insegnato a lei tanto tempo fa, a leggere la bilancia, a regolare e a far funzionare l'affettatrice elettrica. Avendo visto che imparava così alla svelta e non avendo notato in lui il benché minimo indizio di disonestà, un uomo affamato che prendeva latte e pagnotte, anche se non insospettabile, non si poteva definire un ladro, Ida si impose di rimanere di sopra più calma per dare a Morris la medicina, fare pediluvia alle sue estremità dolenti e tenere in ordine la casa che era sempre polverosa per via del cortile adibito a carbonaia. Con tutto ciò provava sempre un certo turbamento all'idea che sotto ci fosse un estraneo e attendeva con ansia il momento in cui se ne sarebbe andato. Nonostante avesse un orario pesante, dalle 6 del mattino alle 6 di sera, ora in cui Ida gli serviva la cena, Frank era contento. Ora che stava in negozio, non aveva più ragione di rivalsa nei confronti del mondo. Era al riparo dal freddo e dalla fame e non dormiva più su un giaciglio umido. Fumava quando ne aveva voglia e stava a suo agio negli abiti puliti che Morris gli aveva mandato giù, tra cui un paio di pantaloni che gli andarono bene dopo che Ida ne ebbe tirato giù e stirato i risvolti. Il negozio era un posto quieto, una grotta immobile. Tutta la vita era stato Ramingo, in qualunque posto si trovasse. Qui non poteva fare il vagabondo. Quel che poteva fare qui era starsene alla vetrina a guardar passare la gente, contento di starci. Fumando dopo il caffè, pensava a tutto quel che avrebbe potuto fare per migliorare quel bugigattolo, se fosse stato suo. Quando qualcuno entrava in negozio, si alzava di scatto a offrire i suoi servigi con un sorriso. Nick Fuso, il primo giorno, fu sorpreso di vederlo lì, sapendo che Morris non poteva permettersi un garzone. Ma Frank disse che nonostante la paga fosse bassa, c'erano altri vantaggi. Parlarono del più e del meno, e quando l'inquilino del primo piano scoprì che Frank era un suo connazionale, lo invitò a venir su a conoscere Tessie, e Tessie lo invitò calorosamente a mangiare i maccheroni quella sera stessa. Frank disse che sarebbe venuto se gli permettevano di portare la pasta. Ida, dopo i primi giorni, cominciò a scendere alla sua solita ora, le 10 circa, dopo aver sbrigato le faccende di casa. Si metteva ad annotare su un quadernetto le fatture ricevute e quelle pagate. Alle 3, quando Ida se ne andava per un'ora o due a vedere se Morris aveva bisogno di qualcosa e a riposare, Frank si sentiva sollevato. Rimasto solo, mangiava molto, assaggiando un po' di tutto, talvolta con un inaspettato piacere. Andava a pescare noci, uvette, piccole scatole di datteri stantii o di fichi secchi, che comunque gli piacevano. Apriva anche pacchi di crackers, amaretti, pasticcini e ciambelle fritte, riducendo in minuti pezzetti gli involucri e facendoli sparire nel gabinetto. Talvolta, mentre era intento a mangiare dolciumi, gli veniva una gran fame di cose più sostanziose. Allora si preparava un ricco sandwich con pane duro aromatico, carne, formaggio svizzero e senape e lo mandava giù con una bottiglia di birra ghiacciata. Soddisfatto, smetteva di vagabondare per il negozio. Di tanto in tanto si verificava un inatteso afflusso di clienti, per lo più donne, che egli serviva con attenzione, chiacchierando con loro d'ogni sorta di cose. Anche gli autisti gradivano la sua socievolezza e la sua affabilità e si attardavano in negozio. Una volta Otto Vogel, mentre Frank stava pesando del prosciutto, lo ammonì sottovoce. «Non lavorare per un giudeo, ragazzo. Sono capace di rubarti anche il culo mentre ci stai seduto sopra». Frank, pur rispondendo che non credeva di rimanere lì per molto, si sentì imbarazzato per la sua posizione. Fu stupito di ricevere un altro ammonimento da un cerimonioso rappresentante di articoli di carta, Al Marcus, un ebreo in carne, per quanto molto malato, una persona seria che non voleva smettere di lavorare. «Un negozio come questo», gli disse Al Marcus, «è la morte, mi creda. Dia retta a me. Se ci resta 6 mesi, ci resta per tutta la vita». «Non c'è pericolo», rispose Frank. Rimasto solo, si mise in piedi davanti alla vetrina a pensare al suo passato e ad augurarsi una nuova vita. Avrebbe mai avuto quello che voleva? Talvolta se ne stava alla finestra che dava sul cortile, con lo sguardo vuoto, oppure a fissare la corda della biancheria, stesa in alto, che si muoveva pigramente nel vento, facendo sventolare i farsetti da spaventapasseri di Morris, i mutandoni di Ida pudicamente piegati per il lungo e le sue vestaglie, che sorvegliavano le delicate mutandine e gli irrequieti reggiseni della figlia. La vecchia, pensava con disgusto, si faceva sempre premura di spedirlo fuori prima che la figlia scendesse a cena. Pensava di frequente alla ragazza. Non poteva farne a meno, se la immaginava negli indumenti che pendevano dalla corda del bucato. L'immaginazione non gli era mai mancata. Se la figurava mentre scendeva le scale al mattino, vedeva anche se stesso nell'atrio quando lei rientrava, intento a guardare la sua gonna svolazzante mentre saliva di corsa le scale. La incontrava di rado, le aveva parlato solo 2 volte, il giorno in cui suo padre si era sentito male. Lei aveva mantenuto le distanze. Con alcune donne bisognava aspettare, aspettare che fossero loro a cercarti. Crebbe in lui il desiderio di conoscerla. Forse pensava perché non aveva mai messo piede una volta in negozio da che lui era lì, tranne la sera quando lui usciva. Non c'era modo di vederla e parlarle a 4 occhi, e ciò aumentava la sua curiosità. Sentiva che era sola come lui, ma la vecchia gliela teneva lontana, come se lui avesse avuto qualche brutta malattia. Come risultato, Frank era diventato più impaziente di sapere com'era, di fare amicizia, ne valesse o no la pena. Poiché non la si vedeva mai, egli stava con le orecchie tese e gli occhi aperti. Quando la sentiva scendere le scale, andava alla vetrina per vederla uscire. Cercava di far finta di nulla, come se non stesse spiando nel caso lei si voltasse e lo vedesse. Ma non lo fece mai, come se nulla di quel luogo le fosse abbastanza gradito da voltarsi a guardarlo. Aveva un volto grazioso, i seni piccoli, una bella figura curata, come se si fosse scelta lei quell'aspetto. Gli piaceva osservare il suo passo vivace, mal sicuro finché girava l'angolo. Nella sua andatura c'era una carica sessuale, un che di stranamente ondulante, come una possibilità di compiere una brusca deviazione. Le sue gambe erano appena un tantino storte, e questa forse era la nota sessuale. Gli restava in mente dopo che aveva girato l'angolo. Le sue gambe, i piccoli seni e il reggiseno rosa che li copriva. Poteva star leggendo o starsene sdraiato sulla schiena sul divano a fumare, e lei gli si accampava nella mente, in atto di camminare per quel tratto di strada. Non aveva bisogno di chiudere gli occhi per vederla. «Voltati», le diceva ad alta voce, ma nella sua immaginazione lei non lo faceva. Un giorno il movimento nel negozio era minore del solito e alle 5:30 non c'era più niente da fare e Frank si disse: «Oggi la vedrò». Si pettinò i capelli in gabinetto per non farsi accorgere da Ida, si mise un grembiule pulito, accese una sigaretta e si piazzò ben in vista accanto alla vetrina illuminata. Alle 6:20, un attimo dopo che aveva praticamente spinto fuori dalla bottega una cliente, una signora che era capitata là dentro scendendo dal filobus, vide Helen voltare l'angolo. Il suo viso era più grazioso di come se lo rammentava. Frank sentì la gola contrarglisi, vedendola giungere a pochi passi da lui, gli occhi azzurri, i capelli bruni che portava abbastanza lunghi, e aveva un modo distratto di lisciarseli all'indietro per toglierseli dal viso. Pensò che non sembrava un'ebrea, il che era un vantaggio, ma la sua espressione era scontenta e la bocca un po' tirata. Pareva pensasse a qualcosa che non aveva speranza di ottenere. Ciò lo intenerì, sicché quando Helen alzò gli occhi e vide il suo sguardo fisso su di lei, il viso di Frank mostrava chiaramente l'emozione. Probabilmente ciò la infastidì, perché affrettò il passo fino all'entrata senza più badargli e scomparve. Per un paio di sere, dopo il lavoro, Frank si andò a piazzare accanto alla lavanderia all'altro lato della strada, nella speranza che uscisse per qualche commissione. Allora avrebbe attraversato la via e, toccandosi il cappello per salutare, le avrebbe chiesto se poteva accompagnarla. Ma neppure questo gli andò a segno, perché Helen non uscì di casa. La seconda sera attese invano fino a quando Ida spense le luci della vetrina. Una sera, circa 2 settimane dopo l'incidente di Morris, il peso della solitudine era tale che Frank ne sentiva una sofferenza fisica. Stava cenando pochi minuti dopo il ritorno di Helen dal lavoro e Ida era di sopra con Morris. Aveva visto Helen girare l'angolo e le aveva fatto un cenno di saluto mentre si dirigeva verso casa. Colta di sorpresa, lei aveva abbozzato un mezzo sorriso e aveva infilato il corridoio. Fu allora che Frank provò uno spasimo di solitudine. Mentre mangiava, sentì che doveva riuscire a farla entrare in negozio prima che la vecchia scendesse e fosse ora per lui di andarsene. La sola scusa che gli riuscì di escogitare era chiamarla per rispondere al telefono e poi dirle che la persona doveva aver riappeso. Era un espediente, ma doveva usarlo. Si disse di non farlo, perché significava cominciare con lei nel modo sbagliato e avrebbe potuto pentirsene un giorno. Cercò di escogitare un modo migliore, ma il tempo stringeva e non gli riuscì. Frank si alzò, andò alla scrivania e staccò il ricevitore. Uscì poi nell'ingresso, aprì la porta del vestibolo e, trattenendo il fiato, suonò il campanello dei Bober. Ida si affacciò alla ringhiera. «Che c'è? Il telefono per Helen!» La vide esitare, per cui si affrettò a tornare in negozio. Si sedette, fingendo di mangiare, col cuore che gli batteva tanto forte da dolergli. Quel che voleva, si disse, era solo riuscire a parlarle un minuto, così la prossima volta sarebbe stato più facile. Helen entrò impaziente in cucina. Sulle scale aveva notato l'eccitazione che la prendeva. «Dio mio, sono arrivata al punto che una telefonata diventa un avvenimento. Se è Ned, pensò, potrei dargli ancora un'occasione». Frank accennò ad alzarsi quando lei entrò, poi si sedette di nuovo. «Grazie», gli disse mentre sollevava il ricevitore. «Pronto?» Mentre lei aspettava, Frank percepiva il brusio nella cornetta. «Non risponde nessuno», disse perplessa. Posò la forchetta. «Era una ragazza e cercava di lei», disse gentilmente. Ma quando lesse nei suoi occhi il disappunto e vide com'era rimasta male, si sentì a disagio anche lui. «Devono avere riattaccato». Helen gli diede una lunga occhiata. Indossava una camicetta bianca che metteva in risalto i piccoli seni sodi. Egli si inumidì le labbra secche, cercando di trovare una soluzione rapida per cavarsi d'impaccio, ma la sua mente, di solito pullulante di piani d'ogni tipo, era vuota. Si sentiva in colpa, come aveva previsto, per aver fatto quel che aveva fatto. Dovendo ricominciare, non avrebbe più fatto a quel modo. «Le ha detto il nome?» chiese Helen. «No, non era Betty Purr?» «No». Helen, con fare assente, si ravviò i capelli. «Le ha detto niente?» «Solo di chiamarla». Fece una pausa. Aveva una voce gentile, come la sua. «Forse non mi ha capito quando le ho detto che lei era di sopra, ma che l'avrei chiamata e perciò avrà riappeso». «Non capisco perché». Nemmeno lui capiva. Avrebbe voluto uscire da quell'imbroglio, ma non vedeva altra soluzione che continuare a mentire. Se non che mentire rendeva inutile il loro colloquio. Quando mentiva, era un altro che mentiva a qualcun altro. Non erano loro due come erano in realtà. Avrebbe dovuto tenerselo a mente questo. Davanti alla scrivania, Helen teneva la cornetta in mano come aspettandosi ancora che il brusio si trasformasse in voce. E anche lui aspettava la stessa cosa, una voce che parlasse e gli dicesse che aveva detto il vero, che era un uomo di nobile carattere. Ma neppure questo avvenne. La guardava con dignità mentre pensava di dirle la semplice verità, cominciando da lì, qualunque cosa dovesse accadere. Ma l'idea di confessare quel che aveva fatto gli dava quasi il panico. «Mi dispiace», disse con voce spezzata, ma se n'era già andata ed egli cercava di fissarsi nella memoria com'era la sua immagine vista così da vicino. Anche Helen era turbata. Non sapeva spiegarsi il misto di fiducia e sfiducia nei confronti del giovane, né come mai fosse diventata così sensibile della sua presenza in mezzo a loro, benché Frank non lasciasse mai il negozio. D'altra parte la infastidivano gli sforzi di sua madre per tenerla lontana da lui. «Mangia quando lui se ne va», Ida le aveva detto. «Non sono abituata ad avere un go in casa». Ciò dava noia a Helen, perché era come pensare che lei potesse scaldarsi per qualcuno solo perché era un gentile. Significava ovviamente che sua madre non si fidava di lei. Se Ida non gli avesse dato importanza, pensava Helen, probabilmente lei non gli avrebbe badato più di tanto. Aveva un aspetto interessante, è vero, ma chi era? Solo un povero commesso di negozio. Ida stava cercando di creare qualcosa dal nulla.